come avevamo sostenuto da tempo e come abbiamo più volte sollevato come problema generale, quel progetto di realizzare un nuovo polo logistico del Teido allo stato non rispetta, diciamo, non è coerente, non è conforme né con il piano provinciale per i trasporti né con il piano paesaggistico provinciale e anche con le disposizioni previste sul piano paesaggistico regionale. E elemento non da meno, ovviamente, quell'insediamento, qualora mai dovesse essere appunto realizzato, consumerebbe 73 ettari di terreno che rientrerebbero nel limite del 3% che la legge regionale stabilisce a livello territoriale per quel territorio, e quindi in buona sostanza ci troveremo nella situazione in cui il comune di Imbanalbergo avrebbe di fatto consumato le possibilità edificatorie per i prossimi 30 anni, perché la legge dispone appunto quel limite entro il 2050, cioè la legge ti dice puoi sì fare costruire, diciamo, in terreno vergine, però lo puoi fare in un limite che è quello del 3% rispetto al già costruito. Se chiaramente il comune di Imbanalbergo decidesse di costruire, procedere insomma con quel progetto, di fatto consumerebbe tutte le possibilità edificatorie per i prossimi 30 anni. Ma questo per noi è, diciamo, un corollario, un elemento ulteriore che aggrava la situazione. Gli elementi che ci preoccupano di più, che ci hanno sempre visti contrari a quell'intervento, hanno a che fare e con il rispetto delle politiche ambientali e trasportistiche di questa che la regione si sta dando, sta cercando di darci. Infatti il polo sorgerebbe in un'area non collegata dal punto di vista ferroviario, quindi graverebbe solo sulla parte trasportistica su gomma, diciamo, da un lato, e dall'altro appunto consumerebbe ulteriore terreno vergine, creando ulteriore consumo di suolo, ulteriore inquinamento. Quindi per noi quel progetto va fermato. Siccome viene contrapposta la necessità di della possibilità di creare posti di lavoro, si parla di qualche centinaio, 1500 posti di lavoro, noi diciamo anche da questo punto di vista dobbiamo superare la logica che mette in contrasto il lavoro e l'ambiente, dobbiamo creare posti di lavoro, dobbiamo assicurare occupazione, ovviamente livelli occupazionali, ma non possiamo più farlo a scapito dell'ambiente, perché le due cose insieme alla fine producono danni e al mondo del lavoro e all'ambiente. Ed è per questo che anche in virtù della non conformità rilevata quest'oggi dall'assessore Alori, Emilia Romagna Coraggiosa insieme al Movimento 5 Stelle chiede che venga fermato questo progetto. Sì, è una richiesta che abbiamo fatto congiuntamente appunto con il Movimento 5 Stelle, con cui condividiamo questa e altre battaglie, e riteniamo appunto che rispetto agli strumenti attualmente vigenti quella proposta, quel progetto non sia conforme, non sia coerente e soprattutto non sia coerente con, come dicevo prima, le scelte politiche in materia ambientale che la Regione si sta dando anche attraverso quello strumento che è il patto per il lavoro, non a caso il patto per il lavoro e per il clima.